Va ora in onda Carta e Penna, programma di informazione a cura di Filippo Glorioso. Buongiorno a tutti quanti voi da parte di Filippo Glorioso, ma anche del mio grande cantante rockstar del mondo che ha la parte tecnica, a Santi Genovese. Grazie come sempre per la fattiva collaborazione e grazie a tutti quanti voi che siete sempre in ascolto CRM Piredio, qualsiasi programma ci sia in palinsesto, perché comunque vale la pena di ascoltarci. Quantomeno cerchiamo di tenervi allegri, nonostante le notizie non certo confortanti che ci giungono dal centro Italia, quindi da Roma. E Santi annuisce, dice, ai, pic indolor, ci sono le piccole punture di insetti, ma chissà che non arrivi Santi qualche iniezione particolare. Speriamo di no. Allora, giornata oggi all'insegna della sanità. Tra pochi minuti avremo il piacere di sentire telefonicamente il nuovo commissario dell'ospedale Giglio di Cefalun, nel più San Raffaele. Sapete che c'è stata una scissione dovuta al dissesto economico del San Raffaele di Milano, quindi questa collaborazione tra i due nosocomi, che dava sfogo poi a dei veri e propri centri specialistici dentro il San Raffaele Giglio di Cefalù, fiore all'occhiello, insieme all'ISMET, al Cervello e ad altissimi altri nosocomi regionali della sanità siciliana in Italia e non solo. È successo una rottura a domino, nel senso che è partita questa problematica economica grossa del San Raffaele di Milano, la scissione con il Giglio di Cefalù. Da qui alcune intelligenze, alcuni primari dei più importanti che avevano costituito dei pool straordinari sono volati fuori, sono andati a finire chi al policlinico, chi a gestire, come il caso del dottor Blasi, che era il primario di oncologia qui al San Raffaele, è andato a gestire il reparto omologo del civico di Palermo, e così tantissimi altri specialisti di una certa valenza. Dopodiché è stato estromesso, dopo l'insediamento di Crocetta alla regione, è stato estromesso il dottor Stefano Cirillo, vi ricorderete è stato per tantissimi anni, per 5-6 anni il presidente della fondazione. Adesso invece è stata commissariata, e a capo di questo commissariamento c'è il dottor Mangiacavallo, che è una persona straordinaria. Ho avuto il piacere di ascoltarlo pochi secondi fa telefonicamente, una persona spumeggiante, sicilianissimo, della provincia di Agrigento di Ribera, peraltro conosce alcuni amici che abbiamo in comune, quindi una persona simpatica, disponibile, eccetera. Poi è anche un professionista della medicina, perché è un pneumologo, quindi si occupa di polmoni, ed è stato tantissime altre volte sottosegretario di Stato, oltre che sindaco di Ribera, per cui ha ricoperto altri incarichi importanti, come per esempio da settembre 2007 è commissario regionale per la Sicilia della Lega Italiana per la lotta ai tumori. Quindi voglio dire, un personaggio di tutto riguardo, una persona umilissima, molto disponibile, che si prefigge, come lui stesso poi ha detto, e ne daremo cenno quando l'avremo in trasmissione tra pochi minuti, nell'apertura del discorso ufficiale fatto a San Raffaele del suo insediamento, si è prefisso di ridare corpo a questa struttura, appunto a San Raffaele, al Giglio di cui stavamo parlando prima. Prima di passare la linea alla regia, c'è stata ieri sera una nota rosa, bella tra virgolette, perché insomma bella non è stata, comunque una bella partita disputata dalla Juventus, che ha cercato il tutto e il per tutto di lo so Santi, ma la Juventus non è abituata a vincere Coppe dei Campioni, per cui quando arriva nelle finali o semifinali puntualmente le perde, ma questa volta non è colpa dei ragazzi, devo dire, hanno giocato benissimo, bisogna essere sportivi, ma contro i Panzer della Deutsche Bayern Monaco non c'è stato proprio nulla da fare. 2-0 a Monaco, 2-0 ieri sera al Juventus Stadium di Torino, quindi con nulla di fatto, ma che lascia ben sperare, una squadra ancora giovane, insomma bisogna che, come diceva ieri sera Marotta, che è l'amministratore delegato della Juventus, bisogna dare ancora un po' di tempo al tecnico e ai giocatori di assimilare un'esperienza, come è successa anche col Milan, le dipartite, nel senso che sono andati a giocare all'estero o si sono messi in pensione, di tanti giocatori validi che aveva sia il Milan che la Juventus, e quindi essendo giovani bisogna dargli tempo perché facciano le ossa, e quindi capire come si gioca meglio e strutturarsi meglio per il prossimo anno e con maggiore esperienza. Detto questo, io direi di dare linea alla regia, vediamo cosa ci propone, dopodiché al rientro sentiamo il dottor Mangiacavallo e continueremo a parlare di cose che purtroppo, ahimè, ci interessano quotidianamente. Linea alla regia. E allora grazie per questa pausina, vi ho fatto rilassare un pochino, adesso siamo rientrati e dunque finalmente il tempo comincia a dare i suoi frutti, nel senso che dopo un inverno rigidissimo con febbre per ben due volte che arriva, se ne va, mal di stomaco, vomito, ce n'è di tutti, per tutti i gusti, finalmente comunque un po' di sole per un po' di giorni, questo ci consentirà sicuramente di vivere meglio le giornate, perché sapete quando il tempo è plumbeo, quando piove, è uggioso, beh anche voglio dire l'umore di noi uomini in senso lato, cioè uomini e donne, è più scuro, insomma affrontiamo la vita in maniera più pesante, la mattina ci riesce difficile alzarci, invece un raggio di sole a prima mattina a casa, nonostante ci siano delle grosse difficoltà, beh ci consente di vivere un pochino meglio, con una speranza in più per un futuro migliore. Allora, detto questo, dovremmo cominciare a parlare di sanità in tutti i sensi. C'è la cattiva sanità, c'è la buona sanità. Spesso ci sono notizie che ci giungono da tutte le parti. Chi fa il giornalista, chi ha testate giornalistiche, insomma, riceve, o quando ci si muove per le strade si incontrano le persone. Ma perché non dite che quel reparto funziona male perché a mio padre, perché a mia zia è stato fatto un intervento che non andava fatto e mia zia poi è morta? Insomma, ci sono delle notizie che a volte ti lasciano un po' sgomento. La mala sanità è anche sui mass media nazionali, spesso ne sentiamo parlare, ma non solo in Sicilia, per carità di Dio, ne sentiamo parlare in tutta Italia, da Firenze a Milano, a Torino, a Bologna, insomma anche in centri di una certa rilevanza. Per cui sicuramente sono esseri umani e in quanto tali sono soggetti a sbagliare, però io vorrei affrontare questo argomento e vorrei affrontarlo con una persona che sicuramente ne è competente ed è il nuovo commissario del San Raffaele e del nosocomio Giglio di Cefalù, della Fondazione Giglio di Cefalù e dell'ospedale Giglio di Cefalù, il dottor Mangiacavalli, che ringrazio per aver accettato l'invito. Dottor Mangiacavalli, buongiorno. Buongiorno a lei, radioascoltatori. Bene, la sento molto bene finalmente, l'altra volta sentivo malissimo, adesso la ricezione è perfetta. Allora intanto la ringrazio, dottore, per aver accettato l'invito, per essere in questa trasmissione, perché con lei desidero affrontare alcune argomentazioni. Intanto partiamo dal suo insediamento. Lei, ho qui davanti una nota, quando si insediò disse delle cose che a noi, voglio dire, che siamo nell'Interland, quindi con la possibilità di avere a che fare dal punto di vista medico e patologico con l'ospedale, ci ha fatto molto piacere. Dice lei testualmente: sono qui per consolidare questa struttura d'eccellenza e proiettarla anche a livello nazionale. Su questa nota mi fermo. Dottor Mangiacavallo, in realtà dalla scissione del San Raffaele, dall'ultima gestione del presidente Cirillo, alcune segnalazioni, facevo cenno prima che lei entrasse in trasmissione, alcuni familiari, amici di pazienti che hanno avuto a che fare negli ultimi tempi, devo dire, con la San Raffaele, ci sono state alcune lamentele su alcuni reparti. Le chiedo questo: lei è da appena circa 3 mesi che si è insediato, peraltro è anche lei medico e un pneumologo, e quindi parlo con una persona competente. Come ha trovato lei la struttura del San Raffaele dal giorno dopo, da quando ha cominciato a capire come funzionava la struttura Giglio di Cefalù? Prima di ogni cosa la ringrazio per l'opportunità che mi offre di parlare di una struttura fantasmagorica quale la Fondazione Giglio di Cefalù. Lei faceva riferimento alla mia dichiarazione iniziale. Sì. Io oggi ribadisco interamente quello che ho detto in quella occasione, all'atto dell'insediamento, e devo dire con maggiore forza, con maggiore vigore, con maggiore entusiasmo e con maggiore convincimento, perché allora lo dissi in funzione di quello che conoscevo grossolanamente della fondazione, svolgendo io anche l'attività di medico. Oggi lo dico con maggiore forza e con maggiore vigore, avendo dopo 2 mesi, non 3 come diceva lei, preso visione di quello che realmente è la fondazione per quanto riguarda l'offerta di salute e le altre componenti, anche la ricerca e la sperimentazione, che la rendono sicuramente un riferimento di eccellenza nel territorio regionale. Sì. Io credo che abbia potenzialità, risorse umane, parco tecnologico, tali da permettere non solo il consolidamento, ma anche un ulteriore rilancio della struttura sul fronte dell'offerta sanitaria, anche al di là di quelli che sono, devo dire, gli stretti confini regionali. Circa le lamentele che possono essere rappresentate da familiari di pazienti, Io devo dire che rispetto tutte le opinioni, ma si tratta sicuramente di fare un'indagine statistica sulla entità, sulla qualità delle lamentele, perché se fossimo perfetti ci accosteremmo al Padre Eterno. E noi questo sicuramente non lo vogliamo. La interrompo un secondo, dottor Mangiacavallo, semplicemente per dire poco fa, prima che lei entrasse in trasmissione con la voce, perché fisicamente lei ha altri impegni, quindi non poteva essere fisicamente presente in studio, ho detto questo, cioè anche la sanità è fatta da uomini, mica da robot, quindi soggetti anche a degli errori, per carità di Dio. Prego. Ma guardi, bisogna, mi scusi se la interrompo. No, prego, prego. Bisogna prima di ogni cosa vedere di che tipo di errore si tratta. Perché nella valutazione della offerta di salute da parte di un qualsiasi nosocomio ci sono dei parametri che possono essere soggettivi, ma ci sono anche quelli oggettivi che poi fanno testo. Per carità, io non voglio criticare coloro i quali eventualmente muovono delle critiche, e che ben vengano quando sono costruttive. Bravissimo. Le posso dichiarare con assoluta franchezza che tutto quello che i pazienti, i familiari dei pazienti, i cittadini possono segnalare in senso migliorativo, mi fanno cosa gradita e li ringrazio anticipatamente. Se dovessero riscontrare una qualsiasi anomalia, una qualsiasi criticità, mi faranno cosa gradita se lo segnaleranno o a me o a coloro i quali hanno competenza all'interno della fondazione. Però devo dirle, al di là delle lamentele, io non conosco nello specifico, perché non ho seguito la prima parte della sua trasmissione e me ne dolgo, al di là di queste che sono veramente il giudizio che viene espresso sulla qualità della sulla competenza, sulla professionalità dei nostri operatori, sia sanitari che parasanitari che amministrativi, è al di là di ogni, come dire, più rosea aspettativa. Io ho riscontrato anche da medico un livello di preparazione particolarmente elevato, tant'è che parlo di una possibile proiezione extraregionale o perché no anche internazionale, perché io ritengo che noi abbiamo tutti i numeri per poterci proporre ai paesi del Maghreb, ai paesi del bacino mediterraneo, che stranamente bypassano la Sicilia e l'Italia e si rivolgono, verosimilmente anche per motivazioni legate alla lingua, in maniera particolare ai paesi del Maghreb che sono francofoni, come lei ben sa, si rivolgono alla Francia, o altri come Malta si rivolgono all'Inghilterra. Quindi noi abbiamo questo progetto, se vuole ambizioso, di proporci anche a popolazioni straniere, ad una utenza straniera che speriamo possa non solo accettare ma anche scegliere la nostra struttura. Dottor Mangiacavallo, fino adesso è stato molto esaustivo. Lei chiedeva della prima parte della trasmissione, ho detto semplicemente che ci sono state alcune segnalazioni. Vedi il numero verde dove mi dicono che mai nessuno risponde. Vedi colonnascopia che fino a qualche tempo fa era stata sospesa, ma non mi hanno mai specificato la motivazione. E possibilmente qualche piccolo defiance dal punto di vista della cardiologia, ultimamente c'è stata qualche piccola defiance. Tutto qui, non ci sono cose gravissime, però voglio dire alcune situazioni, io già ho risposto in questo. Scusi, io ho il sacrosanto dovere non di fare l'avvocato difensore, ma di fare imperare la verità. Per quanto riguarda il numero verde, io dovrò sincerarmi se effettivamente la segnalazione che è stata fatta corrisponde a verità, perché io devo dire con estrema sincerità, ho provato a chiamare il numero verde e mi hanno risposto, e sicuramente non sapevano che dall'altra parte del telefono ci è ovvio, è ovvio. Perché un commissario deve fare anche questo tipo di controllo, non me ne voglia l'operatore del nostro numero verde. Per quanto riguarda la colonoscopia, le posso garantire che il servizio di endoscopia digestiva è perfettamente funzionante, con i tempi di attesa che evidentemente ci possono essere, ma che io mi sono già impegnato ad accorciare quanto più è possibile, perché uno dei primi o primari obiettivi che la Fondazione vuole raggiungere è quella di rispondere pienamente e laddove è possibile prontamente a quelle che sono le giuste esigenze del territorio, e sicuramente l'endoscopia digestiva anche sul fronte della prevenzione ha un suo indiscutibile valore e significato. Per quanto riguarda la cardiologia, me lo lasci dire senza alcuna perplessità o indulgenza nei confronti di chi che sia, la nostra struttura cardiologica, non dico al solito il nostro fiore all'occhiello, perché di fiore all'occhiello ne abbiamo tanti, ma è considerata una delle più autorevoli e prestigiose sul territorio regionale, tant'è che nella nostra struttura è stato impiantato un supporto tecnologico primo nel mondo endocardiaco per il trattamento dello scompenso cardiaco. E se io le dicessi quanti accessi ci sono stati su YouTube relativamente alla notizia che è stata messa in rete, lei non ci crederebbe nemmeno, perché siamo dell'ordine di decine di migliaia di contatti, di ingressi nella rete su YouTube per prendere visione di questa procedura. No, io invece la credo, dottor Cavallo. È al di là delle lamentele che io devo e posso rispettare, francamente le devo dire che criticare la nostra cardiologia è dovuto più verosimilmente a qualche piccolo disguido che si sarà creato sul piano personale che non un giudizio obiettivo espresso sulla struttura stessa. Chiarissimo, anche, prego. Insigni cardiologi, società scientifiche, docenti universitari hanno avuto parole di grandissimo apprezzamento per la nostra struttura cardiologica e non solo cardiologica, e sono quelle cose che ci spingono a lavorare di più e possibilmente a lavorare meglio, fermo restando, non vorrei essere frainteso, che laddove si configurassero delle criticità, delle inadempienze, delle negligenze, chiedo espressamente ai cittadini, ai pazienti, agli utenti di segnalarle immediatamente, perché nessuno è perfetto. Ci mancherebbe, dottor Mangiacavallo, lei è stato come sempre esaustivo, chiaro, leggibilissimo, e concordo in tutto con quello che lei sta sostenendo in questo momento. Io conosco San Raffaele da circa 10 anni, e quindi adesso ex San Raffaele, adesso soltanto Fondazione Giglio. Leggevo qua e là alcune note che la riguardano e davo lettura anche ai nostri radioascoltatori, perché ritengo che lei, non soltanto dal mio punto di vista, ci mancherebbe altro, ma da chi ha preposto la sua stessa persona a dirigere in questo momento il nosocomio di Cefalù, io credo che leggendo dalle cronache si evince che lei, oltre ad essere stato amministratore come sindaco della città di Ribera, sua città natale che io adoro moltissimo, poi è stato anche deputato eletto nel 96 con l'Ulivo in quota lista Dini e sottosegretario di Stato per la Sanità dal 98 al 2000. Di conseguenza, da settembre, diamo le ultime notizie, adesso non facciamo tutto perché sennò non finiamo più, da settembre 2007 commissario regionale per la Sicilia della Lega Italiana per la lotta ai tumori, quindi da amministratore, poi anche un medico, quindi voglio dire un pneumologo, e oltretutto ha ricoperto delle cariche istituzionali sia di levatura locale che di levatura nazionale, addirittura viceministro, per cui ha tutti i santi crismi per rendersi conto, per poter mettere in moto un meccanismo che, se magari un po' inceppato, e chi credo meglio di lei con queste caratteristiche lo possa fare. Dottor Mangiacavallo, io la ringrazio per questa attenzione nei miei confronti. Io le rispondo semplicemente dicendo: spero di meritare la fiducia di chi ha creduto in me affidandomi questo oneroso ma prestigioso incarico, e poi spero di conquistare la fiducia dei cittadini di Cefalù e di tutto l'Interland, e principalmente dei nostri collaboratori, che meritano di essere tenuti in altissima considerazione. Ci mancherebbe. Poi a questo posso aggiungere anche la sua fiducia, sarà per me motivo di grande soddisfazione. Questo lavoro ce l'ha già, dottor Mangiacavallo. Scusi, prima di lasciarla, perché so che è molto impegnata. Pronto? Sì, la sento. Ah, sta ancora lì. Dunque, ci preme molto capire un attimo, a tutti coloro i quali vivono in questo bacino, ma non solo, perché lei mi insegna che al San Raffaele arriva gente anche da Caltanissetta, da Palermo, da tutte le province della Sicilia e non solo. Poi c'è questa prospettiva del futuro che lui, lei poco fa, a cui lei faceva cenno poco fa, di oltre la sponda del Mediterraneo, e noi siamo felici di questo, ci mancherebbe, siamo orgogliosi di essere siciliani, e chi meglio di noi potrebbe essere felice di una cosa del genere. Ma in atto, la fondazione verso quale altro sistema di collegamento, di cooperazione si sta muovendo a livello regionale intanto? Se c'è questa possibilità di tradunion, se si paventava l'ISMET, si facevano nomi di qua e di là, ci sono delle certezze matematiche o si sta ancora cercando di chiudere qualche cerchio, dottor Mangiacavallo? Io cerco di elencarle le certezze più che le possibilità. La più importante delle certezze che abbiamo acquisito e sperimentiamo quotidianamente è che da parte dell'assessorato regionale alla salute, in maniera particolare nella persona dell'assessore, da parte del Presidente della Regione e da parte dei vertici istituzionali dell'ASP abbiamo una disponibilità che oserei dire commovente, immensa, perché credono che il Giglio di Cefalù possa ritornare agli antichi splendori e aggiungere altri elementi di prestigio. Questa è una certezza che ci permette di andare avanti e di traguardare degli obiettivi che sono particolarmente significativi. Altre certezze che le posso comunicare sul piano della ufficialità è il rapporto di strettissima collaborazione con l'Università di Palermo, più specificatamente con la Facoltà di Medicina e Chirurgia, che si potrebbe concretizzare in qualche cosa di particolarmente importante, che non le anticipo e non per fatti scaramantici, che può avere un ritorno particolarmente importante non solo sul fronte dell'assistenza sanitaria, ma anche della formazione e dell'indotto che può rappresentare per Cefalù e per tutta la zona. Un'altra certezza è il rapporto di collaborazione con le istituzioni che le dicevo, per vedere di valorizzare insieme alla Fondazione Giglio di Cefalù anche l'ospedale di Petralia, anche quella una bellissima struttura, ahimè destinata quasi irreversibilmente ad una chiusura. Siccome noi crediamo anche nella politica della sanità territoriale, vogliamo fare la nostra parte interamente e nella maniera più qualificata possibile per instaurare uno stretto rapporto di collaborazione con l'ospedale di Petralia. Quindi queste sono certezze che io sul piano della ufficialità posso comunicare, mentre altre cose di cui si parla in giro, francamente, ci onora come l'attenzione che ci è riservata da altre istituzioni private, pubbliche, accademiche, ma in atto le certezze sulle quali possiamo contare e sicuramente conteremo sono quelle che le ho testé esposto. Dottor Mangiacavallo, io la ringrazio tantissimo per la sua disponibilità, per essere stato così esaustivo. Mi consideri a disposizione quando vuole, se non tedio ulteriormente i suoi ascoltatori, mi può chiamare quando vuole. No, lei non tedia. È anche un mio dovere quello di informare e rispondere alle sollecitazioni, quindi la ringrazio anche per l'opportunità che chiudiamo con una battuta sulla capisco che può sembrare retorica, ma è importante, perché man mano che io parlo con lei e l'ascolto, come anche i nostri radioascoltatori, mi rendo conto che lei, io lo definisco un uomo tutto d'un pezzo, anche se poi può avere simpatie, che è grazioso e alla mano e disponibile, come ha dimostrato nei confronti della stampa e nei confronti della nostra trasmissione in questo momento, e di questo la ringrazio, dottor Mangiacavallo, della sua sensibilità in questo senso verso i mass media e soprattutto verso chi ha bisogno di cure nell'immediato. Ma visto che lei ha ricoperto anche cariche istituzionali, come sindaco, come sottosegretario di Stato, in un momento così particolare, in un momento così triste per la nostra patria, se lei potesse dare un suggerimento ai suoi ex colleghi politici, cosa direbbe? Come medico intanto, perché c'è una patologia e quindi bisogna, c'è una metastasi, c'è un tumore, cosa consiglierebbe? Politicamente cosa lei darebbe come consiglio affinché questo finalmente, queste diatribe, queste situazioni venissero a chiudersi, di modo tale che la gente possa respirare un po' e godersi meglio quel po' di vita che ci resta da vivere? Guardi, la nomina che mi è stata conferita riguarda solo ed esclusivamente la gestione e l'amministrazione della Fondazione Giglio di Cefalù, per cui io andrei molto al di là di quelle che sono le mie competenze riconosciute se mi azzardassi a suggerire qualche cosa agli insigni politici che ci onorano della loro rappresentanza nelle istituzioni nazionali e regionali. Non legga note di sarcasmo o di ironia, perché da cittadino comunque posso dire che credo sia arrivato il momento, e non ci è consentito ulteriormente derogare per ripristinare una, come diceva Aldo Moro, una nuova stagione dei doveri. Ripristinare la legalità, le regole, la correttezza, l'onestà, l'impegno, la competenza è quello di cui tutti si sono vantati sul piano dei proclami, la meritocrazia. Se il senso di responsabilità potrà prevalere sull'interesse di parte, se la competenza e l'esperienza potranno essere utilizzate in senso migliorativo e non in senso personalistico, io ritengo che al di là della internazionalità della crisi qualche risultato potrebbe anche arrivare. Se poi a tutto questo aggiungiamo un sano, doveroso riconoscimento dei bisogni dei cittadini, di quelli che non hanno lavoro, di quelli che sono ultimi, di quelli che hanno grosse difficoltà nella vita quotidiana, io ritengo che qualche risultato finalmente questa meravigliosa Italia potrebbe ottenere, ma non è compito mio. Io già con fatica faccio il commissario straordinario del Giglio di Cefalù, per cui se fu vera gloria dei nostri politici, ai posteri l'hanno sentenza. Dottor Mangiacavallo, è stato un piacevolissimo incontro e sentirla, perché comunque quando si ascolta una persona che parla con le parole che proferisce lei, una persona si arricchisce ancora di più e si rende conto che nella vita ci vuole umiltà per arrivare a raggiungere degli obiettivi. Senza umiltà, con la presunzione e l'arroganza, questo in poche parole è quello che diceva lei prima, bisogna rendersi conto che c'è gente che ha bisogno e quindi scendere al livello di quelle persone e dare il più aiuto possibile. Io le auguro di vero cuore un proficuo lavoro, un buon lavoro, dottor Mangiacavallo, in mezzo a un mare di difficoltà di cui ci rendiamo conto, che quotidianamente lei, il personale medico e paramedico, dovete far fronte parimenti ai parenti e ai pazienti, ma tutti insieme, se abbiamo la volontà di farcela, sicuramente ce la faremo, e lei sicuramente ce la farà, dottor Mangiacavallo, a riportare. Mi fa piacere sentirle dire tutti insieme. Sì, no, non è un lavoro, non è un lavoro personale, abbiamo bisogno di tutti per questo impegno particolarmente. Beh, se i medici non le danno una mano. Ma mi creda, ce la faremo. Non ne ho dubbi, visto la caratura della sua personalità. È stata una simpatica conversazione. Grazie a lei, buon lavoro anche a lei, dottor Mangiacavallo, in linea cose, alla regia. Grazie, di sentirlo. Sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, E allora rieccoci in studio, vi ricordo che state ascoltando Carta e Penna, in studio Filippo Glorioso, la parte tecnica sempre Santi Genovese, che ringrazio per la sua fattiva collaborazione. Un grazie ancora al commissario straordinario dell'Istituto Giglio di Cefalù, mi viene sempre a dire San Raffaele, perché insomma dopo tanti anni, circa un ventennio, insomma si diceva sempre San Raffaele Giglio, cioè il Giglio e la Fondazione Giglio di Cefalù e l'ospedale. Abbiamo ascoltato il dottor Mangiacavallo, il quale ha ampiamente disquisito sulle tematiche presunte o vere di alcune defaillance della sanità, che pur ci stanno, insomma, perché come dicevamo prima i medici sono anche delle persone, qualche defaillance ci può essere, qualche disattenzione anche dovuta forse a volte al troppo carico di lavoro e a troppo stress. Quindi lo ringraziamo ancora, gli auguriamo ancora buon lavoro e buon lavoro diciamo anche a chi volesse evitare di lavorare, quindi un buon lavoro particolare e vuole delegare ad altri delle cose che lui invece vorrebbe fare, per esempio chiamare Croce Verde, perché volontario sociosanitario nella persona di Rosario Antonio Anzaldi, prestazione medica per manifestazioni sportive. Cosa si intende? Che qualora in diversi comuni dell'Interland qualcuno organizza i pali per esempio con i cavalli, vuole organizzare delle gare automobilistiche e necessita per forza maggiore di cose per la sicurezza e l'incolumità dei piloti, ma anche del personale e della popolazione che assiste alle manifestazioni stesse medesime, necessita la presenza di una ambulanza accessoriata. Bene, chiamando Croce Verde avete questa possibilità. Le filiali sono San Mauro Castelverde, Pollina, Cefalù e Castelbuono. Poi le dimissioni in ospedale, se un vostro parente necessita di essere riaccompagnato a casa, beh, chiamate sempre Croce Verde e l'ambulanza della medesima azienda è a vostra totale disposizione. Poi se i vostri genitori sono anziani, voi non siete presente per dargli una mano, non ci sono i nipoti, non c'è nessuno che gli vada a sbrigare dei documenti sanitari presso la di Cefalù o di Termini Imerese, anche in questo caso Croce Verde interviene. Sede a San Mauro Castelverde, vi ribadisco, le filiali sono a Pinale di Pollina, Cefalù e Castelbuono. Vi do i numeri telefonici 360 866082 oppure 333 40 27 332. Croce Verde, e mi raccomando, nel senso che potete dormire con due guanciali, perché insomma sono altamente qualificati. Andiamo ancora avanti con un'azienda che di questi tempi va molto per la maggiore, va sempre per la maggiore, ma in questi tempi ancora di più perché siamo in primavera, e l'azienda Salamone Genovese SNC di Cerda vi mette a disposizione tutto quello che vi necessita per fare l'orto, per salvaguardare la vostra campagna anche dagli incendi, quindi dei cespugliatori, motoseghe, motozappe, anche per insomma chi ha la vigna vuole lavorarsela può farlo da solo senza bisogno di chiamare terze persone che hanno i mezzi, con pochi soldi non c'è uno sperpero di denaro. Le motoseghe per esempio sono dell'Alpina, poi c'è anche il centro assistenza, c'è il centro assistenza, le motozappe della Ford o di altre marche se volete, per l'irrigazione, poi questo è importante, se non potete stare lì col tubo a passare ore e ore, impianti a goccia, tubi di irrigazione ad ala gocciolante, questo è importante perché voi avete il timer, lo mettete da solo, si innaffia il vostro orto. Poi c'è la corderia varia, troverete tutti i pezzi di ricambio. Poi abbiamo i quad per il vostro tempo libero, sabato e domenica belle giornate, vi comprate un bel quad da Salamone Genovese e questo vi consente di divertirvi nel tempo libero. E poi cross e mini cross, tutto per la campagna, via Roma numero 75, telefono 091 899 1350. Salamone e Genovese, in cui fino al 30 giugno vi dà un'altra possibilità: stufa a pellet e a legna con detrazione fiscale, pensate, fino al 50%. Le marche, beh, basta dire una, la Nordica. Entro il 30 giugno, mi raccomando, regatevi da Salamone e Genovese e troverete tutto quello che necessita, con anche i pezzi di ricambio, con le garanzie dovute. Info chiocciola salgen.it e www.salgen.it. Vi ho dato tutto, vi ricordo il numero di telefono 091 899 1350 e buon lavoro. Bene, detto questo passiamo a un altro argomento. Non c'è soltanto malessere nella sanità, non c'è soltanto malessere nella pubblica amministrazione, ma anche nelle aziende private. È inutile dire che stanno chiudendo milioni di aziende, che siamo in un momento critico. Anche in magistratura, ahimè, ci sono movimenti franosi. Cominciamo con un caso per tutti, il CSM ad Ingroia, no all'incarico regionale. Il magistrato è stato chiamato dalla regione a ricoprire l'incarico di presidente di Riscossione Sicilia. Invece il Consiglio Superiore della Magistratura gli ha negato e l'ha spedito al Tribunale di Aosta. Il magistrato Antonio Ingroe non potrà ricoprire l'incarico del presidente di Riscossione Sicilia SPA, società partecipata della regione siciliana che si occupa dei tributi nell'isola. Lo ha stabilito all'unanimità la terza commissione del Consiglio Superiore di Magistratura, organo di autogoverno dei giudici. Tecnicamente il pubblico ministero avrebbe 10 giorni di tempo per presentare una sorta di ricorso, ma è quasi impossibile che il plenum del CSM possa cambiare idea. Le varie anime della magistratura sono tutte concordi e ieri hanno anzi ribadito che Ingroia dovrà prestare servizio in Valle d'Aosta o come giudice, ma in questo caso in sovrannumero, o come pubblico ministero. C'è un'altra diatriba in corso in questo momento tra due colossi della magistratura, lo scontro fra Caselli e Grasso per il CSM, caso da archiviare. Potrebbe concludersi martedì prossimo con l'archiviazione al CSM da querela tra il procuratore di Torino Giancarlo Caselli e il presidente del Senato Pietro Grasso, sentendosi delegittimato da Grasso per le sue parole contro i processi condotti come gogna pubblica. Caselli ha chiesto una delibera a sua tutela, ma da una prima lettura dell'intervento di Grasso pronunciato a Piazza Pulita e acquisito dal CSM non sembrerebbero esserci margini per un accoglimento delle richieste di Caselli, perché il Consiglio Superiore della Magistratura intervenga a tutela di un magistrato. Occorre che l'elezione del prestigio non riguardi semplicemente il singolo giudice, ma l'istituzione che rappresenta, e che si sia tale da determinare un turbamento al regolare svolgimento e alla credibilità della funzione giudiziaria, condizione che, dicono a Palazzo dei Marescialli, dell'analisi del testo di Grasso non sembrerebbe emergere. Quindi anche questa diatriba tra i due colossi della magistratura sono insomma in via di chiusura. C'è un altro momento di tensione all'interno del PD. Si era chiuso, siamo in politica, si era chiuso con le primarie, si diceva che Renzi non avrebbe appoggiato Bersani dopo l'elezione di quest'ultimo. In realtà Renzi si è comportato in maniera molto legale sotto il profilo morale ed etico. Adesso giustamente da più parti dentro lo stesso PDL si comincia a criticare in senso velato, perché sapete che il PD non è un partito come il PDL cui panni sporchi li lavano fuori, no, li lavano all'interno, come giusto anche che sia. Insomma, non bisogna mettere in pubblico ciò che in privato poi si dicono le varie anime di quel partito. Renzi mi avevano detto vai avanti tranquillo, ti votiamo, ma poi è arrivato qualche telefonata da Roma per fare il contrario. Bersani mai chiamato, chiedete la Telecom. Insomma, siamo al ridicolo, perché se un presidente del Consiglio designato, se un segretario di un partito vuole defenestrare, vuole stoppare un suo collaboratore o una sua controparte, beh, non è che deve fare la telefonata diretta a lui, voglio dire, basta delegare e poi lì insomma i giochi sono fatti. Ormai della politica conosciamo entrate ed uscite. Ancora tangenti sugli appalti fotovoltaici, insomma ancora gente che sono stati umiliati anche dai politici, ex agente Gladio, ve lo ricordate Gladio, Crax ci disse di tacere, insomma ci sono delle situazioni veramente veramente paradossali. C'è una notizia del PDL al Senato, la Vicari che fu sindaco di Cefalù è stata nominata vicepresidente. Il gruppo del PDL al Senato ha completato la squadra del suo ufficio di presidenza. Dopo l'approvazione del regolamento, l'Assemblea ha eletto vicepresidenti i senatori Giuseppe Esposito, Paolo Romano e Simona Vicari. Portavoce del gruppo sarà la senatrice Anna Maria Bernini, mentre il ruolo di tesoriere è stato affidato al senatore Antonio Azzolini. Adesso ci fermiamo, l'ultima pausa prima della conclusione della trasmissione. Al rientro parleremo di un'altra questione, dopodiché ci saluteremo perché il tempo a nostra disposizione, anche perché c'è Santi che preme, mi ha detto non parlare cose che se mangiano, perché se non me mangio te. Linea alla regia. E allora siamo veramente vicini alla fine, mancano esattamente 4 minuti, in 4 minuti facciamo un ultimo sforzo per parlare di un argomento grave, importantissimo per chi vive in Sicilia, e stiamo parlando dei cinghiali che stanno massacrando Nebro di Madonie, insomma, però sono dappertutto, ormai sono sguinzagliati a destra e manca. Il professore Bruno Massa dà una sua lettura su questo, dice bisogna semplicemente abbatterli, e dice l'unico sistema per ridurre la presenza dei cinghiali che stanno creando gravi danni alle culture e alla fauna della Sicilia è l'abbattimento. Bruno Massa, zoologo e professore di agraria, non usa mezzi termini per spiegare la sua ricetta per ridurre le presenze invasive di un animale che l'uomo ha introdotto con superficialità nel territorio dell'isola. Ad una precisa domanda, dunque, dicono i colleghi, non ci sono alternative. Il cinghiale si era estinto, pensate, nell'Ottocento nella nostra regione. Poi alcuni dirigenti dell'azienda forestale demaniale decisero 30 anni fa di reintrodurlo nel territorio. Prima venivano messi in alcuni recinti, poi questi recinti non si sa come, insomma, non ci sono state più, e da lì insomma, è partito tutto quanto. Da Ficuzza su Monte Cammarato, sui Veroletani, i recinti non si trovarono più. Da lì fuggirono e adesso sono davvero un serio problema. L'unico modo per poterli estinguere definitivamente, dice questo insigne professore, nonché insomma un esperto del settore, è quello dell'abbattimento, perché se li chiudessimo i recinti, continua la nota, gli animalisti insorgerebbero, perché come si fa a coerciderli in spazi molto, molto ristretti? Invece con l'abbattimento selettivo eccetera eccetera, allora si potrebbe cominciare veramente a togliere questa piaga, perché è una vera e propria piaga. Allora, prima di salutarvi volevo darvi il buon appetito con Perito Ittica, il meglio del mare, perché me l'ho detto un sacco di volte, ma trovate pesce veramente fresco, da quell'azzurro ai molluschi, tutto quello che vi serve per la vostra tavola. Poi ci sono i sughetti pronti da portare a tavola, già pronti e preparati, senza possibilità che vostra moglie si metta lì le mani e i capelli, cosa gli faccio oggi a mio marito, che con che cosa condisco la pasta. Ci sono i sughi pronti con il pesce spada, con sugo di pesce spada o anche con il pesce azzurro. Dove trovate Perito Ittica, il meglio del mare? Lo trovate a lui in piazza Cristoforo Colombo 8, a Castelbuono invece in via Vittorio Emanuele, poi c'è l'ambulante, lo trovate proprio vicino a via San Pasquale, vicino all'istituto San Pasquale. 0921 92 22 79 per il Ittico del mare, il meglio del mare. Se avete problemi invece di denti, sia di ortodonzia che di odontoiatria, non dovete per altro che andare allo studio in via Sant'Anna 8 bis della dottoressa Domizia Di Fazio, perché è l'unica specializzata nel settore ed è l'unica che ha uno studio bivalente e vi dà la possibilità di curare e seguire l'andazzo della vostra dentatura con la massima deontologia professionale. Quindi studi di della dottoressa Domizia Di Fazio di ortodonzia, e poi se necessario anche odontoiatria, scusate ma la stanchezza si fa sentire. La dottoressa Di Fazio è specialista in ortodonzia, per cui se avete necessità o di problemi dentari o di invece di curare i denti o di estirparli, c'è anche lo studio associato di odontoiatria. Se avete altri tipi di problemi ai denti invece, dovete, soprattutto di ortodonzia, dovete rivolgervi alla dottoressa Domizia Di Fazio. Vi ricordo che è a Castelbuono e la trovate in via Sant'Anna 8 bis. Chiudiamo con queste belle giornate, sabato e domenica. Beh, dove andare? All'agroturismo da Collina del Nibbio. Sono un percorso, c'è anche lì un percorso da fare, il percorso culturale, con dei murales straordinari fatti da artisti locali che sono straordinariamente bravi. Anche le sculture è tutto in pietra, quindi troverete un paesaggio straordinario, una piscina che vi possa tra qualche mese sarà già ultimata, quindi giugno-luglio potete fare anche bagni in piscina se volete. Potete fare delle camminate a cavallo, sempre tutto questo su prenotazione. La contrada dunque la trovate in contrada Pantano Policariti a Reitano in provincia di Messina. Vi do i numeri: 0921 33 80 34 o 328 47 34 286. La Collina del Nibbio, oltre ad avere, voglio dire, uno spazio verde straordinario, una cucina semplicemente naturale fatta da loro, cominciando dal pane, tutto, ripeto, su prenotazione. Non azzardatevi ad andare lì senza aver prima chiamato, e vi danno dei piatti come i cannelloni di crepe di casa, i maccheroni al ragù, oppure i primi piatti, questi sono degli esempi che vi faccio, di castrato oppure di cinghiale, di suino nero dei nebrodi, dico bene, suino nero dei nebrodi, con tutti i nessi e con poi i dolci, ragazzi, insomma la ricotta con il cocco è qualcosa di fenomenale. Le stanze ci sono, potete pernottare, sempre su prenotazioni, sono super accessoriati, ma la cosa importante è che siete immersi in un polmone di verde a contatto diretto con la natura, con una enogastronomia locale straordinaria. Non ci sono prodotti che possono venire da altri paesi o da altri posti, e soprattutto la pace e la quiete, dove voi potervi ritemprare e per ripartire il lunedì e andare un'altra volta al lavoro. Bene, è tutto, io devo ringraziare intanto l'ospite che abbiamo avuto, anche se via telefono, il dottor Mangiacavallo, commissario straordinario dell'istituto della Fondazione Giglio di Cefalù, che è stato graziosamente a interloquire con noi sulle tematiche di cui in oggetto di cui si occupa lui in questo momento, quindi la gestione del nosocomio di Cefalù, le sue intenzioni, i suoi progetti futuri e qualche sogno nel cassetto. Ringrazio anche alla parte tecnica Santi Genovese, che come sempre mi supporta in maniera straordinaria, i nostri sponsor, ma soprattutto voi che sempre in maniera gentile e garbata ci ascoltate e ci seguite con tanto affetto. L'appuntamento per domenica in differita alle ore 9:30, chi volesse farlo, vuole seguire le puntate precedentemente mandate in onda, può farlo su Podcast Repliche su www.crmpiradio.it oppure sempre su Facebook o ai nostri numeri di telefono che sono a vostra totale disposizione. Da parte mia, buon weekend all'insegna del sole, del sano divertimento e della spensieratezza, si spera. Se così non fosse, beh, insomma, pazienza, ci inginocchieremo e guarderemo all'insù. Un bacio da parte di Filippo Rosa a tutti, ciao, buona domenica. Abbiamo trasmesso Carta e Penna, programma di informazione a cura di Filippo Glorioso.